non fumartela però, No, se non faccio un travaglio, cosa fai? Almeno quello, dopo che è morto, piano piano mi si razzo. Beh, ce l'hai, so se. No, faccio. Capano? No, è qui a Milano, come la prima prima. Ah, allora corri su di buco. Ah, sì, no, cosa fa? 2 metri, asso. Almeno che sia 2 metri. Sì, sì. Ci sono, ci sono. Certano, certano, poi che ha fatto il cagnotta. Non vuoi più appazzito, mamma, ci sono addormento. Gabriele, di qualche cosa. Cosa c'hai, di tesoro? Cosa c'hai? Guardati WhatsApp, dimmi se ti piace, se no butto tutto. Dai, sì. Che carino! Hai visto? L'altro te lo metti sul barattino, quello che ho fatto a te, e l'altro lo puoi usare come portachiavi, appendere al passeggino, anche su chi ti piace. Carino, molto carino. Yeah. Manuè. Oi, la sai, e beh, tutto a posto. Sì, tutto a posto, e da pure a posto, ma visitato questo chirurgo stamattina, niente di fatto, no. Devo smettere categoricamente di fumare e camminare. Vabbè, si prende quello tabacco, quello più leggero. No, no, smettere del tutto proprio. Cazzo, una parola. Lo so. Io, magari ce ne una. E tu, a lavorare devi andare pure no? Domani mattina alle 5 e mezza ci devo uscire, Natale, fino alle 7 di sera. Cappa, cazzo canturi, mamma mia. Ragazzi, Roma, Giulia, per carità. Sì, ma per carità, veramente. E poi in casa stare la tappa delle ore, che devi stare davanti alla strada, tutti i macchini che imparano, imparati, ci sono i semafori così, a batteria, manco per un gas, passano solo con un semaforo lungo. Beh, da ieri. Ah, ma ho fatto i coglioni, che cazzo devo fare a fare un bici, una puttana a me. Sì, infatti. Ho lavorato delle golanzi maiuscola, capito, non cazzo. Sì, lo so solo, è un lavoraccio sì. Ma la gente che non lo sa, perché è un gioco, capito, questo lavoro. Sì, fanno nulla, non ti paga nessuno, Manuè, se ti paga ne vuol dire che bisogna travagliare. E appunto, a grazie se non ti dà nessuno, nulla, a grazie. Ah, grazie. Manco può dare bene, a grazie se ti dà di più. Se non fai nulla non ti cude nessuno. Bisogna che porti a che cosa, allora sì che ti cudi, ma se no no. La carità. Poi Zanca, cura a lui. Sempre mala. E me Antu, Mice, Emanuele e io. E già sentito già. Buonasera, ciao Marcello, mi sono anche addormentato un po'. Oh, un attimo, le vado a cambiare la pagliolista. Sì, la cultura è già la bella. La Tani va sempre bene, sto arrivando. E allora male. Sta arrivando sempre bene, sì. Perché? No, perché oggi mi sono un po' spaventato. Non capisco perché ti devi spaventare. Io vedo che arrivi sempre quando scala qua. Perché l'antenna mi si è un po', capito, col vento ha piegato un po'. E va. No, vabbè, ha piegato lo so, che doveva mollare. Io ho capito. Che vuoi che ti dica? Un bel vento sta facendo, no? Vento fortissimo c'era stamattina, ha detto noi di qua questa cosa, che un po' si è piegata dall'altra parte dal vento che ha fatto. E la mia sarà stata in orizzontale addirittura. Come cazzo? E la mia, sì, la mia cazzo è un bel, si muove un bel. Cazzo. Rubaru è dritto, ma è dai, si muove. Pure la butti di sciuro. Ma poi torna normale quando passa il vento. Faccio sempre da non impidare all'astro, so che va in Noravona. Adesso fra 6 mesi devo fare torna un'altra di quelle tacche col contrasto. Adesso lunedì me la programmo. Lo dico che la devo fare fra 6 mesi e poi mi posso visitare quando la voglio. Chiaro. Senza contatto ti lascio i visiti che giù di va, vai in Noravona. Anche stufo ne sono. Io dopo che ti dica. Io mi sono quando questo punto va malato, mi ha trovato rappresentato. Come andavo a trovare gli altri? come viene. Anda a vela. Sei pittina. Sto leggendo roba al computer io. Ci deve essere, io me ne sono cominciato davanti alla rurista che guarda, ero grimato oggi quando ho fatto dalle 9 fino a mezzogiorno e mezzo all'ospedale ero. Vai tu, da questa visita è che mi hanno telefonato all'improvviso e sono dovuto andare subito. Li sento, mi sbloccano lo squelch addirittura. Io quasi 9:20 è arrivato con un passaggio. Figurati, se mi sbloccano lo squelch, io ho messo lo squelch per non sentire il QRM, no? E lo passano, vuol dire che sono furti. No, adesso la numera l'ho tolta a parte ieri. Mare si darà, si vi sempre. No, a regalo no, ma arrivo da pagata, anche io la più pagata, forse mi dico 4 euro. Sì, lo so, quelle grandi, quelle boomerang grandi. Lo so che costano, cazzo, 50 euro costa già. L'ho pagato più di 50 euro. Infatti non conviene darla, può servire, anzi è fatto male che non ti l'hai piazzata pure vista, se viene sempre. Perché arriva più forte della mia di un punto la Grazioli ed è un barrasone di antenna che pesa un casino. No, ma non la compro con la radiale. Sì, allora conviene che ti compri una di quelle come la mia. Se la vuoi senza radiali devi comprare una quante la mia, che la mia costa lo stesso. No, c'è la V10, c'è ciao Giomarì, buonasera, mi hai sentito? Antonio, grazie. E a fate anche quello, Antonio. Allora, c'avevo due possibilità, ma io ho pigliato una come te la mia, che è leggera e pompa voci, ma Gio Maria già ne sa qualche cosa, ce l'ha anche lui, vero Gio Maria? Anche lì, vanno benissimo, ma sono breve stazionari. Sono già calettati dalla parte, c'è per cui 140 kg mi sembra che fosse adesso. allora ho abbassato un po', costava più di 150 quando l'ho presa io. Ma io l'ho pagata 148. Ma c'è un innesco di un male strano. Sì, no, io non ne sento, Gian Maria. Come no, metti portate qui in sala. Ancora c'è? Ora no. Com'è la radio? E già va bene, Gian Maria. Sto provando l'M600, l'ha adattato, sto provando, ma mi sembra che non è ancora posto bene, va. Ma io ti sento bene, poi come sto facendo secondo te, Anto? Io ho messo un po' la batteria scarica, c'è un bravo. La batteria è stata mezzo scarica, perché ce l'ha, che domanda c'è, che era così buttata, anche il microfono. Sì, lo sto provando, tutto lì. Va bene, va bene, così dai, Natalia, mi progetti poi e ci ha posto la canzone. Sì, andavo, Gio Marie, grazie per essere entrato e per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, là. Sì, dai, ciao, anche a te. Ciao, Gio Marie. Cinque meno se ne fuggì, Duca. Cinco. Tonino non chiama così, cinque meno. Ehi, Tonino, rubati il Tonino di Emanuele. Già lo so già. Cinque meno. Se ne va bene poco, casino. E Gabriele ci sta dormendo, mi. E sopra la poltrona. Io dormito, ma me ne sono cominciato danzura. È entrato Emanuele e l'ha giù riposo. Hai un preso. Ero coricato anch'io, me ne sono alzato poco fa, la verità, ero crepato. Lo so. Una di per la propagazione. Ma non sai che è a livello che mi sblaccano i canali, eh? No, è a livello che, cazzo, se mi sbloccano lo squelch a me, lo squelch. Quando io metto lo squelch per non sentire il QRM, no, arrivano solo quelli forti, da. Quelli bassi bassi non li sento. Cazzo, mi bloccano i ghisso. Dimmi tu. Cazzo fuochi. Io li sento nel canale vicino, pensa tu. Sì, allora sono pure un buon pendino sull'astro. Ma in chi si maeggi, sono tutti così. Se non è un kilowatt non sono contento. Sì, se ti sblattano nei canali vuol dire che stanno anche pompando, non solo d'altro. È per quello che sbloccano lo squelch. Dimmi tu. Non so già. Stavo dicendo che stavo vedendo le caratteristiche, stavo guardando le prove e tutto. Quella che vorrei prendermi io non pesa neanche tanto, è leggera come antenna. E boh, non la conosco quella lì, io conoscevo quell'altra che stava in acciaio, tutta costruita bene, capito. Però quella che voi prendete io non la conosco. Sarà mezz'onda, più corta pure sarà. Se senza radiali sarà mezz'onda sicuramente. È la Q10, ma dalla prestazione è allucinante. E non lo posso immaginare. Via un brido. Infatti da me c'è la 5 ottavi e quella un quarto d'onda della mia. Io ho la 5 ottavi, ma non pesa nulla. È praticamente un dipolo, un pezzo di vilo è in verticale. E cazzo pompa come se non ha dannata. Ma non inteso in tutto il mondo, ma non inteso. Sì, sì, sì. Uguale. Delle prestazioni più alte, è quasi una 50. Che vuoi ti dica? Non la conosco, non ti posso dire niente. Io so della mia che pompa che mentre era la nada e non pesa nulla. attacchi, il rivestimento serve per tenere dritto il dipolo e basta. È un dipolo alimentato alla base, è un dipolo verticale praticamente. E quella dell'assidio, quella originale, oh. Mi hanno sentito da tutte le parti, guarda, mi hanno sentito. Qui adesso che sul tetto è una belva, anche a Franco, mi cazzo, ma avanti ci fosse Branco, ma una posizione Branco che è qualcosa di bello, e c'è più forte di me pure, perché lui c'ha la posizione. Però a me in tutto il mondo mi hanno sentito, molte volte che venivo a Franco qua, che magari stava facendo commissione, veniva da queste parti, veniva qua e si buniva le mani in capo a chi mi intendiene in Ugnarucu. Già lo so, già. Quest'anno è strano, c'è la propagazione ogni giorno. Tu sali alla tripla 5, c'è sempre gente, sempre. Mai era successo così, che era tanta propagazione. Già lo so, già. Posso capire in estate, ma va. E per il freddo, vento, è purgata a Rimini Roma stessi. Ecco c'è Rimini, ma forse in barone. Figurati, perché ci sentono, se tu senti a loro, solo loro sentono a te. Cazzo, c'era gente che mi arrivava a Santiago Novo, peccato, in banda laterale, fortissimi arrivano, ed erano dall'altra parte del mondo, dimmi tu. Molta propagazione c'è, non ne avevo mai visto io così, sì in estate sì, ma siamo già a novembre, grazie a Dio, quasi a dicembre. E infatti, adesso doveva essere chiusa la propagazione, invece no. Ogni giorno ne sentivo molta gente. Chiama Emanuele, gatta, Baghissu o è a Fittendi e non entra Baghissu, non si dà di udienza a Baghissu, a chi è a Fittendi è? Emanuele, chi ci arriva il mio data, sì, all'anima di Giambada Riva, è Longa che c'ha Giambada Riva. Io adesso lo farò una moccia, non salire a 4 metri. Cosa, l'antenna? Sì, ancora più un attimo di avversare, ma se ci può, quando scala ma arrivi tu a me, cosa la si fa? A pigliare più colpi. Ma lo sai, una cosa, se non fa rugata da due, nemmeno 2 metri. Se vuole almeno 3 metri per risuonare bene dal tetto. Ehi, già si intende di Buravani, matracchi, noi chi non si intende di Buravano. Ah, muro, se non per minchia arrivo. E fatti un conto, si latte ancora di più. Cosa vuoi arrivi, fondo scala, a coso, a muro. Ci troviamo. Io non ci arrivo lì perché sono in basso qua. Che io adesso lo sento bene, prima non lo sentivo a quello di Muros, invece adesso l'altro giorno è entrato e l'ho sentito, era incomprensibile quando c'avevo l'antenna più bassa, diciamo così, là. No, io te lo sentivo bene quando abitavo via di corso. Sì, ma vabbè, vuol dire che più libero, io invece no, non ero libero per niente. Adesso già è libera l'antenna mia, adesso già è libera, è per quello che lo sento. Proviamo, non è solo il gitano, è che non va nata per funzionare. Non sentivo a nessuno, Pucci gatta. gira a Roma Rumuru, no, non anda da. Così funziona. Infatti. Invece è così, quando è bella libera allora lavora bene. Qui c'è un fallo da 4 metri, la mia, quindi sarà un 3 metri il palo da. 3 metri in alto. E almeno risuona meglio, risuona bene da. Prima non risuonava, era attaccata alla cabituria, era coperta da tutti i palazzi, già lo credo che non ricevevo bene. Invece adesso già funziona. Ma sicuramente perderò un po' verso lì, verso San Giovanni, verso No, guarda che tu c'hai una posizione buona, mi, come Giulio. Giulio Barigucci che si è in basso, mi. Però cazzo Giulio lo sentono da tutte le parti. Lo sento, no, non ti preoccupare tu, che la zona già è buona quella che c'hai tu. Meglio della mia è mi pure. Perché nella zona che sei tu sei tutto libero. E no, che quando un po' grumare a 4 metri, allora sì che senti veramente la differenza. Non saprei, può darsi che non hai nessun beneficio, non si sa mai, ci sono tante cose che contano. Già così come sei adesso arrivi fondo scala qua. Smith non ce n'è più. Sì, io sono piccolo piccolo, buonasera. Buonasera. E aspetta, secondo me è un beneficio, soprattutto nella zona di Ottava, ecco, il minimo è una bomba, arrivi. Bisogna vedere sempre. Ciao Tony, buonasera. C'era il tuo figlioccio Cingommino che dice doveva cambiare l'acqua alle olive, però è lunga questa cosa. O è affittendi chi su vuoi chi se furbillomi. Ciao Latari, ma no, io lo so già, è mio figlioccio, quindi lo conosco bene. Dice apposta l'acqua alle olive, invece anda a affittare in maniera. Oh, mi ha mandato una foto, non so se l'ha mandata pure a te. Guarda, te la mando? E manda, chi se affittendi, è affittendi chi su è. E mi ha scritto sono a dieta. Cazzo, oggi tu che la faccio che è a dieta, aspetta, aspetta. La voglia manda muratoria, ma con lo sputanito, cazzo, fucino giù di vecchia, cazzo. Manuele, ecco qua. Un video è, cazzo, faccio un po', allora. Dunque fammi trovare. Allora. Grazie a Stefano, Natale, doppio, Franco, Luca, vediamo dove c'è Natalino, dove è Marino, Fausto, Nell'Angelo, Silvia, Antonio pure glielo sto mandando. E Natalino, cazzo passato da già Natalino, lascia lì. Mamma mia, che ci hanno già poco di corsi. Allora, vediamo un po', io mando questa qua, Antonio, Bombolo, adesso lo mandiamo a Natalino, aspettami, dunque, il capo di gara. Accoppiato però mi da Madrino. Eh beh, siccome te lo facevo anch'io le baguette con la mortadella, lui ha inteso, allora ce l'ha fatta Muretto, si è andato a Mizzino a Mari, allora Marco sente proprio il sapore delle praterine. Cingomino, ah, raggiunti. Non entri adesso, no? Aspettando stai. Manuele, Manuele, avevano già indutti cosa si mangiano mi. Mortadelle e baguette, Magnini. Sì, attore, mi. Ciao, attore. Ciao, attore, buonasera. E buonasera a tutti. Vero Natalis? Allora, una baguetta che si buttava all'ombo, gatto. Ma giumai che abbiamo mandato la baguetta che è, duca. E tu là, e ti raggiudizio io. Chi si è accoppiato? A facere fene buruedo. A chi tonino e rubaldino mi di Manuele, che non ha compreso tutto. Chi su è accoppiato? E allora, dai, via, se mangia così. Ma non si può mangiare in pace, no? Lui! Lui! E cos'è, aspettando sta, via! No. Manuele, mica a va a venire Natalino, te lo mobolo la tua dieta, mi. E lo deve mandare? Chi su che mai manda a me? Chi su filone di pane? Lo non vedo io, no? Un giugno, Sì, sì. Cazzo non me la vedo. Ma giù mi sono mangiando la baguette con la mortadella. Guarda, mi ha pensato, mezzo chilo di salame, mi ha pensato con l'auto. Mimì, a bocca piena va. E allora, cazzo Maria, sono entro clarinetto, Maria, cazzo. Ma mi sei andato a mare a sentire l'aria delle praterie del mare. Ho dimagrito, sono 20 kg, 20 kg. Oh Marino, cazzo, del periodo, Manuele, cazzo, state rimpuzzato. Maria, sono entro un clarinetto, Maria. E invece era un filone. Natali, l'altro giorno ero a fare il servizio vicino a cose della busta a casa. La sera e questo qui mi ha detto ma lì cosa fa lì puttafuri, l'ho visto in una discoteca di Uzi, no, una volta andavo a fare puttafuri, adesso fai il butta dentro. Adesso butto dentro. Dimmi Antu, a Maro sei come te Emanuele, visto che ti è perito e poi mi ha scritto un messaggio, mi ha mandato questa foto, cioè questo video, mi ha scritto sono a dieta. Sei a dieta, Guido, cittina. Sì, ma se non è a dieta cosa me la succhiva via? Quattro baguette. Se ne mangiava quattro, se non è stata a dieta, ma mangiato una solo, ma cosa è a dieta? Sì, sì, sì, sì. Oh, yeah, perfetta. Mezzo litro di vino bianco. E te, mezzo litro di vino bianco, sacchizza o salammo, un mezzo bagnotta. Tony, domani mattina mi devo alzare presto, mi devo essere bello calzettato, devo essere. È per quello che sei riforzato, no? Beh, domani mattina si riduce a essere che mesi. Hai capito la tariesso perché mangia lui? E prendi la riserva e prendi mezzo litro di vino, ha bevuto. Tore, cosa ne pensi tu? Ma vista che hai una guscia che ha forma di baguette e l'altra è bella madura. Comunque Manuele, come si può lagare qualcosa pure per noi che siamo deperiti davvero? Comunque mi sono pensato, a parte gli scherzi, in farmacia e mi ha detto si prega di salire una volta a bilancia. E a chi ha creduto che eravate, che era di indui? Pensa un po' che avete dimagrito. Buscata la Tari. Prima che era di indui, mi senti, mi hai compreso là. E poi si prega di salire uno alla volta. Yes. Hai capito? Chissà chi è tu, è di permetto organico, l'hai negato 20 kg. Ascolta Manuele, tu non puoi dire a uno che non ti conosci, ma non lo puoi dire. E adesso ci vuole un bel dolcetto, ma per la formacella non sto mangiando. E te? È proprio vero, vuol dire che va bisogno, anche del periodo curarito Manuele, bisogna che si rinfuzzeggia. E domani da 10 alle 5 a travagliare. di tue e tu di mette non ha, quindi può mangiare tutto ciò che vuoi. E lo so, tu rifusa di me, se no vai a travagliare ti sciari, allora ti mangia. E via da Edu, di Romantenga, che non ha diabete, cazzo di non posso mangiare nulla, quando balla. Io ci faccio un fame, mangio una stazza a me il bar, dico giuro, la griceria se vedo che mangio una cosa me la mangio, certo no a strafare, no quello no. Per esempio dopo il mio assaggio la bella cacco mela, che io la chiamo mela cacco. Ma chi sei dozzi? A me me ne mangio una però, mangio la griceria a 35, la ci ho preso. Eh sì, a 35 anda pure bene. Putte, ma sei già un cacco mela, no? Io mi la devo misurare, e che dai? Quasi quasi devo mangiare fra un po', boom. Ok, e io? Ho guardato questo annuncio qua, stanno vendendo una gara qui, 150 euro, nuova. Pronti, e dov'è? Su Marche Play, guarda, su metti Galaxy. Adesso lo metto a vedere. Bella nuova, si vede nuova nuova. Ma quanti bande c'ha? Almeno 6 bande ce l'ha. Non c'è nella putti, ma anche se c'ha 5 bande, tanto non vede nessuno. Vabbè, anche tu hai ragione. È nuova, bellissima, è nuova nuova. L'ho vista due giorni fa. E mi pigliete che non è troppo asciugo. Ehi, sei giunta a me moglie, l'hai presa. E non vado ad aprire la cosa. Tu, comunque l'ho vista l'antenna, la devi alzare un po', è troppo bassa. L'alzariamo, lei la devo toccare in grado di fare. Da te da quanto c'è? 2 metri? Qualcosa del genere. Almeno 3 metri e mezzo deve essere da terra. Sto organizzando i fani. Ma noi non ha ciappo. Guarda, sono andato pure io stavandolo. E mandamolo tu. Dopo guardo. Adesso sto masticando. C'è un lineare, un ciubo aristocratico. 500 watt. 350 euro. Quello è bellino. Quello... Noi non ho soldi, se no ma l'avrei preso, l'avrei portato qua. Chi su dice ma è cosa mala, Luciano, cazzo. Chi su dice ma è forte? Ti ricordi quello dei calacchini, Tony? Cosa? Quello dei calacchini. Ah, è Buxa che fino ha fatto? Ah, l'altro pompava. Sì, quelli piacciono a me, quelli sono carini. Ma disturba non bemmi, Antù. Il Giambo disturba. Tutti disturbano la carina. Ma va in cosa male quando lo attaccava. Ma noi ne ha già avuto uno a 400, lascio il 130. 350, 250, tutto Galaxy. No, guarda che c'è 150 euro. O 150 o 180 mi sembra che, però era nuovo nuovo. No, io sto trovando tutti i Galaxy qua e anche su Brescia non ne fa vita. Ho detto per 400, 330 euro, 250 e 350. Ah, troppo, quello che ho visto io si poteva prendere. Ora l'ho già venduto perché io l'ho visto 2 giorni fa. Ah, questo da 130 e la Fayette Petrus. Ma la base? La base, sembra proprio tipo lo Galaxy, uguale. Ah, quello grigio, No, è nero, però non c'ha frequenzimetro. E non c'è neanche tutti frequenzimetro. Ma è la base, è bellina anche il Petrus. Descrizione non testata senza microfono. E poi, ce lo giuro io attaccato. Ma... No, quello che avevo visto io c'aveva anche il microfono proprio piccato. No, io non lo trovo, Manuè. Poi guardo io e... Aspetta, là, riprendi con Natale, guarda bene. E io riprendi, Natale. Io non c'ho posto, se no a me mi è sempre piaciuto. Ce l'avevo il Galaxy Saturn. Cazzo, era una belva, e da cui l'ha aiutato a fare un culo a me. Voglio pure un rosciure. Cazzo, quanti c'è a volte, sa parecchi. Ma io rosciure ce l'ho, me lo tengo. Quando sarà, mi attacco isso. E isso vi vuoi fare un Galaxy? Cazzo, a 10.000 mi faccio di tutti e ci lo sciure. C'è una bella radio col Galaxy. Tu mi hai già sentito con lo sciure, Natalia? Sì, sì, ma ce l'avevo anche io e lo so per quello, perché avevo fatto le prove. MG4 lo faceva a beffa, il Turner più 3 ugualmente, il Turner più 2, cosa cazzo non avevo provato? Eppure alla cutiduta, il villo più forte c'era sciure, chi si va più una manopolina rossa era. È mia manopolina rossa già. Quindi, il volume è rosso. Poi davanti, allora, si arruca la testa dove c'è il microfono, davanti ci si torciure e c'è un affare tipo un fulmine rosso quadratino e in bianco. E poi ci torciure. Sì, non mi rammento, ma già hai visto. Visto con la manopolina ruvia e il gambo del microfono che si allunga. Quello lì è, c'avevo quello lì attaccato io al Galaxy. Ed è ragazzo una belva che sul microfono. Ma secondo te si ammazza la luce se metto il giornale tolta? Allora, se c'ha 500 watt, assorbe un kilowatt, lui da solo. Chi farà male? E lui si è. No, la tali mise, immaginatemi. No, no, non sto sbagliando, è così. Se lui dà 500 watt l'apparato, assorbe 1000 watt di corrente, solo lui. Non ti preoccupare, già è così. Io per navi uno che mi cattava il puntatore, fatti lo conto. È mezzo kilowatt, cioè mezzo, è un kilowatt sono 1000 watt, quello è 500, serve a madrare quasi 1000, quindi assorbe quasi 1000, un kilowatt in madre laterale, ma in AM 500 watt, sono 500 watt, non sono 1000. No, 1000 di correnti in assorbe, cosa si risente? Non so che date un kilowatt in banda laterale. Però ne assorbe 1000 di, se sei in AM ne assorbe 1000 watt di un kilowatt di corrente assorbe, anche chi c'era portante. Se non fai corrente abbastanza di catalo puntato riburu, ci vai roba attaccata. A trattarlo devi staccare tutto. Io attaccavo, avevo il Galaxy 1000 lineare, aveva 4-5 valvole, grosso, nero, e quando schiacciavo la palina si abbassava, andavo in banda laterale si abbassava, che era quasi 2 kW in banda laterale, quello sì me la abbassava la luce. Io lo grido. Io ho conosciuto l'Indian, il e poi cosa vira? Un astro, un avio umano, vedi? Ha detto, ma che cazzo io? Ma non ne usavo mai, io non ne ho mai usato, non mi piaceva, non è la verità. E non ne ho mai usato, anche potendolo usare. Ne ho avuto grossi pure, me. Però non mi dà di auguri di idratarli, vedi qualcuno che faccia l'antenna buru, a chi l'antenna non lo regia, qualcuno che ha sbagliato, invece di la M e ci di FM la c'è l'antenna, anzi l'ha fatto un buco all'antenna brucio, a ramanto fammi, cazzo, dici che l'RG213 faria gingomma. Fai ciappo, attacca il tuo gare. Eh sì, stiamo parlando di non più bene del 213. E se te lo sto dicendo che che qualcuno ha bruciato l'antenna. Ha bruciato, più di uno l'ha bruciata l'antenna, ma cosa non si ne hanno arrivati che da zia l'amplificatore e giustamente succede a casotto. Di una l'hanno copiato. Sì, era come l'ha fatto il buco nell'antenna, nella garage. Ci vuole. Ci vuole. Ci vuole. Ho un amico mio per usare due di quei lineari, un Indian era e un altro li usava in parallelo, ne aveva tolto anche il PL, ne aveva tolto sia dall'antenna che dai cosi, erano tagliati proprio. Aveva fatto la carica dell'antenna col tubo di rame, aveva fatto, perché sennò scoppiava l'antenna. Certo. È muovata in parte. carichi, s'antenna e s'avanto, poi era tutta modificata, pile non ce n'era, e se no cazzo c'era dispersione e in più cazzo non rigia tutti chi si va. La carica dell'antenna l'abbiamo fatta col tubo di rame, no? Figura di un po'. Pensa un po' come te, quindi me la conoscevate il mate. Usava uno per pilotare l'altro, perché l'India 1200 non so quanto ne dava, più cazzo c'aveva l'altro, tutti e due in parallelo, via. Poi cazzo, quando usciti ti puoi volumare, andare in una bulletta, via. Vabbè, però è una soddisfazione, va via. L'antenna era fatta proprio per pilotare quei lineari. Se uno già lo sa e chi aveva sbagliato, invece di essere in AM era in FM, era, mi pare. E cazzo, la cultura portante, cazzo, ha fatto POU! Luia, io ci chiamo. Ci sentiamo dopo, limite, ok? Sì, ok, anche io vado a mangiare che è già ora. Ci sentiamo, da. Ciao Tonino, ciao chi altro fosse l'ascolto. Ok, ciao Sansone, ciao Gattarino, buon carica, a dopo. Ciao ciao. Oh Tony, ciao Gattarino, buona carica, buon tutto, dai, anche a te. Niente Tony, siamo venduto là, non c'è. Ma infatti non lo trovo, ero girendi. No, non c'è, c'è quello lì che hai visto tu che non è attestato, non è stato attestato. Senza microfono, e basta, dai, che induca nel 4-7, 3-5-4. E l'ho visto infatti, vabbè. Ciao, a canto prima di Natale già esci, mi bacio. Ma non ne vale più la pena, ti dici, Infatti, va. Io ci sono usato il precedente, se è stato così bene, guarda, poi il resto. Ciao, basta. Poi tutti i 10-23, non potrei più nessuno. Braccia con braccia, bravo. Via Gio Maria, amico, e poi Gio Maria. Cazzo, via, Fiorellino, cazzo, via. Ciao, Manuel, buonasera. E buonasera anche a Tonino. Ciao, Gio Maria. Cazzo, con braccia, Tonino. E vabbè, ficando c'è la roba che ci interessa, compriamo poi Nisba. Ma i galassi ormai sono tutti travasati, qui non conviene più a usarli, dai. No, che già convengo, Gio Maria, io mi sono pedito il mio, l'ho dato via, ga. Ma chi l'aveva venduto quello mio, numero 2? Quello lì c'era, allora, quello che mi avevi dato tu c'era Marino, non so se l'ha venduto o ce l'ha ancora. Bella fila fatta. E grazie male passata. No, Emanuele, a te ti dura nuda. Mi dura nuda. Io l'ho venduto che poi ho preso le due radio, ho preso il 706 e il 7000 avevo comprato poi. Il primo Galaxy stato io era bello, nuovo, e te l'hai venduto un bruiccio, cadere a Milano. Sì, nuovo, c'erano le scritte consumate. Andava bene, sì, quello sì, però c'erano le scritte consumate. E le scritte consumate, 750.000 lire avevo pagato lì da Mario Lottare, Mario M2, il negozio. E già me lo ricordo che prima c'aveva il Pluto c'avevi prima, poi l'avevi il Pluto, l'avevi dato a Moretto, se ti ricordi, e poi c'avevi preso la gara. No, io il Pluto non l'ho mai avuto. Io quando poi mi sono trasferito a Porto Rossi 10 mesi, che torno dalla casa Sassari, avevo il Samurai, che è un tipo Pluto, e poi non mi ricordo a che cacchio l'ho venduto, non me ne metto più. Comunque, poi ho preso il Galaxy e poi l'ho dato a te. Tony, avevi il Galaxy Pluto e l'hai venduto al Moretto, era nuovo, l'avevi comprato, c'ero io davanti, l'avevi comprato, l'hai tenuto mi sembra un paio di mesi e ti avevi preso la Galaxy nuova e il Pluto l'avevi dato al Moretto, l'avevi venduto. Io non me ne metto. Arboretto già lo conosco, però se lo vedo non lo riconosco più perché sono anni, avevo un po' non ci ho mai frequentato. Infatti non è più Budone del Macquisci, un vent'anni, chissà che fino ha fatto. Questo Galaxy Bruto l'avevi preso quando state ancora in via Maddalena. No, via Maddalena, non via Maddalena. E in via Maddalena, cioè capito, che facevi la scalina per pensare la tua cosa tua e ce l'avevi il Bruto. Non me ne ammetto, ma non è, sinceramente. sapete, io Pluto, Galaxy Pluto, quello piccolino non l'ho mai avuto, quello nero, no, io ho avuto il Samurai. Ma era come Pluto allora, era uguale al Pluto con il suo estimetro. Sì, però era argentato, capito. Giovanni, Manuele, non si la metta in vita, Calmagna, Maghette con la mortadella. Deve diminuire perché sono povero, capito? Mi ha mandato un video che mi ha detto una baghetta che capita un metro e mezzo e proprio 5 kg di mortadella dritto. E per questo è proprio un filo di 4 centimetri. Avari, e pensa da riportarsi, domani mattina vado a lavorare. Poi mi ha mandato il video, ha scritto la mia dieta. E la dieta odie. Si mi ha detto sì, io mi sono pesato Giovanni, mi ha detto si prega di salire una alla volta nella bilancia. Ha fatto bene il turismo. Pensa un po', e prima ancora ha detto che Edo ha lagnicato 20 kg, sì sì. Ehi, vabbè, dai, ti saluto, che sto facendo cose. Ciao Torino, alle prossime, ciao Mare. Grazie. Ah, bene, sono cognato, niente sta di quello scusa. No, adesso che mi stanno facendo la moto zappa adesso. Bobo. E se non prendi un motocoltivatore, se ti serve Giovanni te lo dà. Andiamo bene. Ah, non ho più visto a chiederglielo. Il fatto è che se lo vedo glielo chiedo. Boh, bella fine ha fatto, boh. Ma guarda, ti sto dicendo, io quando l'ho sentito questo qua, mi pare un poco bucacciola che non sa travagliare. Questa moto qua c'era ancora lì, l'ha chiamato, pensa tu, perché l'aveva già un paio di settimane lì buttata e ancora non l'aveva guardata, gli ha detto, pensa tu, tanta serietà fanno i meccanici. Io sono stato dove lui, avevo pigliato la moto, mi sono buttata, avevo detto, ancora fa una cosa, vai, si me ne ha il culo, vai. E poi lo sa, gli dice, c'ha questo problema, poi un giorno dopo gli dice, fornati pure che c'ha l'altro problema, ma che sei, ma lascia perdere, va. E oia, sono di quelli famosi, quelli lì, per carità, io gliela avrei presa, me l'avrei portata a casa, e magari non c'è quasi niente. Senz'altro c'è dall'acceleratore oppure dove c'è il fusibile adesso c'è il manubrio, perché c'è anche il fusibile, poi se cammina per i pedali, cazzo, deve camminare la moto, se mette l'acceleratore deve camminare per forza, non c'è niente il motore. Giovanni, guarda, io gliel'ho detto, lui è duro, la moto è la Giulia, lì di nato di giù, forse mi subito indietro. Gli ho detto, Gio Maria ha preso queste due manopole dell'acceleratore, dovevi aspettare un attimo, la provavi, perché sicuramente è dalla manopola, senz'altro, al 100%. Questo qui gli ha detto tante di quelle balle che non è un'idea. Prima gli ha detto che vedeva di saldarvi il filo dell'acceleratore che magari si era sbucciato. Poi lo chiama e gli ha detto che dall'acceleratore è tutto a posto, che dal blocco della ruota. Dimmi tu. Ma come fa a dire una cosa del genere se sta parlando cammino? Il motore non c'ha niente. Non c'è niente, l'acceleratore è comandato dalla centralina che c'è sotto manubrio dove c'è la valvola, dove c'è la valvolina. Appunto, gliel'ho detto anche io, gliel'ho spiegato anche io, ma io a stare lì a spiegare le cose, domani non mi interessa un cazzo, ma lì di nascio di giù, faccia quello che vuole, a me non mi interessa nulla. Quella stanza la mia, ne l'avevo già pigliata, e avrei provato questa manopola qua nuova, la manopola con l'acceleratore. Poi vediamo un po', se non era da lì, cosa vedeva un po' cosa fare. Ma infatti, come l'ho detto anch'io, cacciate, dopo 3 giorni è arrivata la manopola, adesso si arrangerà peggio per lui. Va bene, va. Carranti, avanti tu, scusa, Ma tranquillo, Gio Maria, che calmo, ero in ascolto tranquillamente. Ok, buona continuazione di cose di fare, Gio Maria, ci sentiamo. Grazie di essere entrato a fare due chiacchiere, avanti Manuè. Ehi, ciao Gio Maria, in caso è che ci sono questi giorni qua, da quale zona lì? Domani no, perché domani faccio dalle 5:30 del mattino fino alle 7 di sera e quindi un po' dura a passare. Casomai lunedì mattina faccio un giro e ci sono, sì. Casomai ci sentiamo, dai, buona continuazione di serata, fatto lì. Ok, dai, ci sentiamo Manuè, ciao, stai bene, rimango un po' ascolto, dai. Alle prossime, ciao ciao. Ah, se ne sono anche io domani me ne ho bisogno da già il 7. Mi sicuro con Mesuaro Antonio, guarda con la televisione, alle 5:30, non lo farà sana che domanda la Santa Teresa. Ecco, poi mi devo cagare a brutto che fa. Vabbè, dai, e io me ne vado un po' in cucina, guarda un po' di TV adesso, ci sentiamo. Ciao, stammi bene. E mangia poco. E va tranquillo, Tony. Quando mi fa la videocamera devi prendere un padre, perché non si fa nel telefonino. Ecco. Ok, ci sentiamo. Ciao, ciao. E ciao, Tony. Fiori lì.